some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that? Go tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Who's the communication? Bravo tango, bravo tango. Join Jezebel, Jezebel. Wow. Buonasera, fantasticherie all'ascolto. Siete all'ascolto in diretta di Lezioni Universali di Esistenza. Abbiamo iniziato in modo consueto con questo sottofondo super nuovo, super fatto in diretta, perché abbiamo il piacere di avere con noi, e lo presento per questa volta ben prima del nostro grande presentatore che mi affianca, il dottor Bleso. Buonasera, dottor Bleso. Buonasera. Oddio, con noi. Buonasera, signore. La musica è cambiata. La musica è letteralmente cambiata, caro maestro Ottani, sempre con noi. Buonasera, maestro. Suoni nuovi. Dai luoghi più impensati della galassia, perché il dottor Bleso porta con sé misteri, magie, orizzonti sconosciuti. Eh sì, succederà questo. Per questa e la prossima puntata avremo sottofondi e musiche in diretta fatte live dal dottor Bleso, la cui storia sarà durante questa oppure la prossima puntata raccontata. Abbiamo un sacco di argomenti oggi di cui parlare, quindi io direi di non indugiare. Che ne dici te, maestro? Non indugiamo, anche perché non si confà a degli esploratori dell'universo, mi sembra. No, abbiamo una brama di sapere che ci muove alla velocità. Così, che cosa stiamo per fare? Dunque, allora, ora sentiremo una musichetta originale del dottor Bleso, dopodiché torneremo con un paio di articoli, maestro. Sarà un tema molto alienistico quello di questa puntata. Ti suggestionerò con alcuni nuovi argomenti, novelle scoperte. Avremo un contributo che ci è stato mandato audio, che ti sottoporrò. E poi, sì, dici? No, prego. No, stavo per l'appunto per chiederti. E poi tu invece che cosa ci... Io sono pronto. Sì, è chi ma non... voi? Ad esempio, tu, dottor Bleso, sei pronto? Sono abbastanza pronto. Molto bene. Abbastanza pronto. Molto bene. E allora io direi che è il momento, dottor Bleso, di farci sentire subito qualche cosa di tuo. Ok. E sì, così ti cogliamo subito. No? Perché no? Visto tutta la strada fatta per venire sin qui. Sì, sentiamolo okay. Subito. E poi così entriamo un po'. Ci facciamo il boccato per questa puntata alienistica. Allora, io farei una cover. Mi accingerei a fare una cover col permesso degli spettatori. Il microfono è suo, dottor Bleso. secondo di preparazione. Perché ricordiamo che tutta la musica sembra provenire da un pianeta non ben conosciuto, ma è fatta qui live. Non ancora conosciuto, direi. Non ancora. Non ancora conosciuto. Un pianeta abbiamo perso. Sì. Non ho capito, maestro, ma... Sì. Un pianeta, dici, abbiamo perso. Sì. Sì, quale? La maggior parte dei nostri spettatori hanno capito la citazione. Io spero che vi stiate tenendo forte, se non fortissimo. Io vorrei invitare il dottore a dirci cosa abbiamo appena sentito. Abbiamo appena sentito Everlasting Light dei Black Keys. Forse lo ricordate per quel brano che fa parapapappa, parapapappa, una cosa del genere. Sì, sì, sì, dottor Bleso, sì, sì, sì. Bellissimo, bellissimo questi interventi in diretta dal dottor Bleso. Allora, io vorrei ricordare che chiunque ci volesse contattare, siamo in diretta, lo può fare scrivendoci su direttawombat.vado.li, oppure ci potete contattare telepaticamente o con qualunque via preferiate, ne abbiamo di molte. Ad esempio, ci hanno appena detto, mio caro maestro, attenzione, ci hanno appena scritto, ma per caso che la citazione era di Star Wars? Esattamente. Esattamente? Bravo maestro, esattamente. Brava la nostra bravi ascoltatrice. Tutti, bravi tutti, comunque tranne bravi tutti. Mario. Sì, è vero. Mario sono io. E allora, con i sottofondi del dottor Bleso che ancora ci accompagnano, mio caro maestro, adesso sto per sottoporti i due argomenti del primo blocco di trasmissione. Lui scuote le spalle, non l'avete visto, ma ha scrollato le spalle come a pulirsi la polvere. Sei pronto quindi, va pronto. Bene? Pronto. Diretta@wombat.vado.li per scriverci, oppure postawombat@insiberia.net. Allora, maestro, io se ti dico due nomi, Io te ne devo dire altri due dopo. Red Ronnie e Jimi Hendrix. Sì, è bella anche questa. Io ti dico due nomi per partire, Red Ronnie e Jimi Hendrix. Ok, io dirò il Conte Dracula e Re Artù. Molto bello, potremmo continuare a lungo. Invece no, ci fermeremo in questo strano accostamento che abbiamo fatto fra un dio della musica, fra questo incredibile performer. Stai parlando di Red Ronnie, certo, mi hai rovinato la battuta, fra l'uomo che ha segnato in modo perenne, sarei per dire, avrei detto la storia della musica, e un giovane musicista morto a 27 anni. No? Sì. Allora, cosa è successo? È successo che... Quale battuta? Bravissimo, ti vedo in forma. È successo che circa due settimane fa, dopo la nostra ultima puntata, Red Ronnie ha contattato Jimi Hendrix. Sì, ha contattato anche me, che vuol dire? Cioè, vabbè, però questa è singolare, okay, perché Red Ronnie è morto, okay, a differenza tua. Anche Jimi Hendrix è morto. Volevo dire Jimi Hendrix. Questa puntata sta prendendo una piega inaspettata. Allora, ritroviamo i fili del discorso. Certo. La medium Sonia Benassi, sì. Che ha... La collega Sonia Benassi, praticamente, secondo le nostre fonti, le quali sono Red Ronnie stesso, che ha fatto dei video nei quali ha dichiarato questa cosa, si è prestata per essere medium in questo contatto fra Red Ronnie e Jimi Hendrix. Ok, perché Red Ronnie aveva, come dire, espresso la volontà di contattare Jimi Hendrix. Non solo, era proprio il suo sogno. Lui ha precisamente dichiarato questo, ha detto: ho coronato il mio sogno perché ho intervistato Jimi Hendrix. E lui ha rilasciato questo video nel quale c'è un'intervista a Jimi Hendrix che è avvenuta per mezzo della medium Sonia Benassi, la quale con la penna e la carta, insomma, ha trascritto quello che diceva il buon Jimi Hendrix a Red Ronnie. E ecco, ora, senza indugiare troppo sulle questioni, che potete approfondire direttamente sui serissimi video del canale di Red Ronnie, diamo soltanto l'indicazione che Jimi Hendrix ha detto a Red Ronnie di essere in realtà un alieno. Io vorrei esordire dicendo questa cosa. Cioè, immaginatevi, no? Siete morti a 27 anni, all'apice di una carriera da rockstar, e dopo, non so, 50 anni, 60 anni vi contatta Red Ronnie per un'intervista dalla Terra tramite Sonia Benassi. Cioè, il semplice fatto che gliela concediate, vuol dire, prevede la santità, per quanto mi no, riguarda. No, è così. No? Secondo Red Ronnie, Jimi Hendrix era già messo in contatto ben due volte con lui. Ah, la prima, sì, quando ha fatto sì che egli ottenesse una delle sue chitarre trovata a un mercatino. La seconda, molto più intensa, invece, è stata allorquando Jimi Hendrix ha fatto sì che un suo carissimo amico abbia venduto delle foto pornografiche, delle Polaroid, che ritraevano Jimi Hendrix, a Red Ronnie, ispirato da una visione in sogno che era arrivata ad entrambi dello stesso Jimi Hendrix. Quindi c'è un precedente, non so se... Quindi questi sarebbero due tentativi precedenti da parte di Jimi Hendrix di contattare il... giornalista Red Ronnie. Esatto. Questa è la storia, in sostanza. Gli ha dato anche dei nomi riguardo al cane, l'amico. Ci sono stati una serie di dettagli. Vi rimandiamo sempre al bellissimo blog di Red Ronnie per approfondire. Tuttavia c'è stato questo dettaglio, ecco, che da allora Red Ronnie aveva anche annunciato un numero, una data, il 27. Aveva detto che il 27 novembre sarebbe successo qualche cosa. Perché? Perché c'è questo numero che ricorre, magico, il 27, no? Sappiamo che Jimi Hendrix è andato a 27 anni ed è nato il 27 novembre 1942. Attenzione, è morto a 27 anni entrando nel club dei 27. Certo. Cioè tutti gli artisti morti a 27 come anni. Amy Winehouse. Bravo, che guarda caso sono 27. Non so se mi spiego. Io ho 26 anni. Cioè, il prossimo anno ne avrai 27, molto sì, bene. Sì, loro erano già, certo, molto più avanti di sì, me. Sì, sì, sì, tieniti in vita, dottor Bleso, hai molto da dare ancora all'umanità. Quindi Red Ronnie aveva detto che il 27 novembre sarebbe stato contattato di nuovo da Jimi Hendrix per nuove rivelazioni. Questo gli aveva detto lo stesso Jimi Hendrix. Addirittura elargisce appuntamenti dall'aldilà. Da allora io non c'è stato giorno che io non abbia cercato notizie su ciò. Tuttavia Red Ronnie non ha dato più notizie. Quindi, maestro, ecco la domanda che io ti pongo a seguito di questa disquisizione. Cosa è successo? perché non ci sono stati più contatti da Jimi Hendrix a Red Ronnie? Oppure ci sono stati e è Red Ronnie a tenerli celati perché troppe verità? No, è Jimi Hendrix a tenerli celati perché è successo chiaramente che Red Ronnie è caduto nella trappola dell'anima di Jimi Hendrix, che gli ha teso questa trappola, e adesso non ci sono più, come dire, contatti, non ci sono più rivelazioni da parte nemmeno di Red Ronnie, perché Red Ronnie adesso è Jimi Hendrix. Cioè, meglio Jimi Hendrix e Red Ronnie. Forse è meglio dirlo così. Quantomeno ha un vago senso, sì, in questo modo. Grazie, maestro, grazie. Cioè, Red Ronnie adesso è un contenitore dell'anima di Jimi Hendrix. Esatto. Quindi, che ha fatto tutto questo trick semplicemente per tornare tra noi e provare, diciamo, le ultime sensazionali scoperte in campo chimico e tecnologico dell'umanità. Bellissimo. Quindi noi, però, perché, scusami, però non risponde a perché il 27 non c'è stato un contatto ulteriore? Perché l'ha il 27 è già successa quella cosa, l'ha direttamente abitato, il trasferimento è stato completato. Questo spiegherebbe anche questo lungo silenzio, esatto, da 6 giorni, come, cioè, da parte di Red Ronnie. Come un download. Okay. Come un download. Aspetteremo quindi attentamente le prossime rivelazioni di Red Ronnie, convinti che lo, abitato dall'animo di Jimi Hendrix, dirà delle cose incredibili. Probabilmente sì, o si limiterà a fare degli assoli epici. Seguiremo, chissà, in ogni caso, e ritrasmetteremo su queste frequenze. D'altronde siamo qui per questo, vero? Sì, sì. E allora, caro maestro, invece adesso andiamo un po' via dall'argomento... Boh, che ne so. Cambiamo argomento. Che argomento era? Che tema aveva? Non lo so. Informatica universale. Abbandoniamo un po' l'informatica universale verso lì di più terrestri, ecco, per questo secondo argomento che ti sottopongo. Vogliamo tenere un po' lungo il filone delle ultime due puntate. Due puntate fa abbiamo parlato dei treni che scomparivano nel nulla e che riapparivano in epoche diverse. Vi ricordate le ferrovie del nord-ovest italiane, eccetera. Non confondere con le ferrovie del sud-est, sì, barese, che, esatto, sono invece altrettanto pericolose ma meno note. Men che mai con la Trenord del nord-est, anche giusto per citare nomi così. Mentre invece la scorsa puntata abbiamo parlato del Philadelphia Experiment, come si dice, maestro? Experiment o Experiment? Experiment. L'inglese non ci sarà d'alcun aiuto davanti a Dio. Segnate da dovunque ci ascoltate, soprattutto se lo fate dalla Gran Bretagna. Allora, cosa stavamo dicendo? Che il Philadelphia Experiment, o Experiment che dir si voglia a piacimento, era stato questo esperimento in cui una nave, dopo il treno, era scomparsa. Era successo nel 1943 perché Einstein aveva inventato questi supercampi elettromagnetici, avevano fatto sparire una nave e poi ricomparire in vari momenti. Fra quelli c'erano vari membri dell'equipaggio, alcuni dei quali erano poi morti, si erano dati alla fuga, abbiamo seguito un po' le loro vicende. Una in particolare è quella che ti sottopongo oggi, maestro, ed è la storia di Al Bielek. Sì, sì. Al Bielek era uno dei membri a bordo del Philadelphia Experiment. Prima o poi lo scoprirò, come si dice. Faceva parte in generale del progetto Montauk, che era una serie di esperimenti governativi, segreti, degli Stati Uniti, che erano fatti nella città di Campiro, vicino a, appunto, a Montauk, nello stato di New York. L'obiettivo era quello di fare indagini sui campi elettromagnetici per tentare di teletrasportare oggetti all'interno del tempo e dello spazio. Cosa che poi effettivamente è successa. Effettivamente è così avvenuto. Come ricordiamo dalle puntate precedenti. E come anche stavamo per ricordare direttamente adesso, ascoltando i racconti di Bielek, che si trovava quel giorno, che era il 13 agosto, a bordo della nave cacciatorpediniere di E-173, che scomparve misteriosamente quella giornata. Bielek dice che accanto al suo fratello Duncan Cameron hanno vissuto tipo un'esperienza lunghissima, di lunghi anni nel futuro, e precisamente sono stati nel 2100, ha vissuto fino al 2137 e poi di nuovo ha fatto un'altra capatina in avanti nel 2749, e ci porta tante verità su quelle che sono queste epoche, maestro, e ora sto per dirtele. Vuoi dire qualcosa prima che te le dica? Sì, ci sono stato anch'io, vediamo, insomma. Si conferma, giusto, certo. Dunque, allora, secondo Bielek, praticamente i medici del futuro usano questi trattamenti che sono fatti di vibrazioni e apparecchi di illuminazione. in televisione, quando lui era in ospedale, c'era la televisione, sì, se ve lo state chiedendo, c'erano notizie e programmi educativi tutto il tempo. Questa è la notizia di Bilek. Si era accorto che a causa del cambiamento globale un gran numero di paesi non esistevano più. Già questo aveva iniziato, era iniziato a succedere da prima del 2025. Attenzione, perché le coste degli Stati Uniti, dell'Europa, non c'erano praticamente più. La Florida era scomparsa, Atlanta era quasi nel mare e così via. I grandi laghi erano diventati un grande lago, le acque si erano alzate. Nel 2137, poi, c'era una specie di legge marziale locale. Il governo centrale non esisteva più. I poli magnetici della Terra avevano invece cominciato a spostarsi ed erano state costruite delle strutture con dei pali artificiali apposta per impedire il disastro, insomma, dello spostamento dei poli. La popolazione mondiale nel 2137 si era ridotta a 300 milioni. La popolazione dei soli Stati Uniti era di 50 milioni, comunque era un botto. Bilek afferma che dal 1954 fino al 2000 aveva direttamente, lui ricorda l'esperimento del 43, quindi queste sono tutte le sue vite future, aveva collaborato direttamente col governo degli Stati Uniti e che questi erano in possesso delle tecnologie aliene. I problemi poi iniziarono negli anni fra il 2003 e il 2005, quando il nuovo ordine mondiale iniziò gradualmente a monopolizzare l'intero pianeta, capito? Però questi piani sarebbero interrotti a causa di una grande guerra, perché ci sarebbe stata questa grande terza guerra mondiale dove da una parte Russia e Cina, dall'altra Stati Uniti e Europa. Molte città americane sarebbero state distrutte fino a che il nuovo ordine mondiale non finisce eliminato del tutto. Il governo poi del nostro tempo, cioè di quel tempo, ha una tecnologia, cioè del nostro, capito, di quello secondo del nostro di ora, ha una tecnologia che in un paio di anni, in un paio di giorni, può ridurre completamente il livello delle radiazioni e neutralizzare le scorie nucleari. Cioè Bilek afferma che attualmente, adesso, siamo in possesso di questa tecnologia, lui l'aveva visto nel 43 questo, che ci permette di ridurre il livello di radiazioni e neutralizzare le scorie nucleari. Oh. Però i governi si rifiuterebbero di ricorrere ad esse per ragioni politiche, perché li stanno tenendo pronti per annullare gli effetti della incipiente terza guerra mondiale. Mi segui, maestro? Sì. Siamo alla fine. Successivamente cosa accade? Che Bilek inspiegabilmente, non ha saputo spiegare come è successo, da questo momento in poi si è ritrovato catapultato nel 2749. Lì però ci è rimasto poco, soltanto un paio di anni. Poi è tornato nel 2013, dove ha incontrato di nuovo suo fratello Duncan, che se l'era perso strada facendo. E poi tutti e due insieme sono tornati nel 1983. Ci siamo? Nel 2749, per concludere, Bilek vide dei supporti a terra, città galleggianti, delle città che si muovevano proprio nell'oceano, le acque completamente alzate e la gestione di tutto effettuata da un grande sistema informatico con intelligenza artificiale. Non più nessun governo, mentre dice Bilek, testuale, ho visto una struttura gigante, cristallina, galleggiante, che permette di comunicare telepaticamente. Ecco maestro, questa è la visione di Bilek del 2749, lo stesso Bilek che attraverso il Philadelphia Experiment di Einstein nel 1943 si è trovato in queste dimensioni future e che poi tornato col fratello Duncan via via strada facendo ci viene a raccontare di tutte queste, non direi eventualità, ma quasi certezze insomma dell'avvenire. Tu che ne dici? Tutto giusto, tranne una cosa. L'apparecchio per parlare telepaticamente, sì, del 2749. 49, esatto. Da dove viene? Ce l'ha detto? No, è stato costruito... Ah, no. No, stavo deducendo io che fosse una tecnologia umana sviluppata nei secoli. Probabilmente sarà un visitatore. Che ce l'ha portato? O esso stesso. O esso stesso. Quale delle due ritieni più probabile? La seconda. Ed è un visitatore di segno positivo, diciamo così, per banalizzare, insomma. O di segno parassitico. Nel quel caso sarebbe negativo? Sì. Sì? Sì. E tu quale visione vedi in questo futuro? Che questa gigante struttura cristallina che galleggia nell'oceano e che ci permette di comunicare telepaticamente, che quindi sarebbe un parassita alieno, avrà un'influenza negativa o positiva per la specie? Io penso che nella sua testa avrà un'influenza positiva, ma è lo stesso ragionamento che farebbe un IA, no? In questo senso, quindi, come dire, non perde un pezzo di umanità in questo senso, o non ce l'ha proprio. Certo, certo. Non ce l'ha, secondo me non ce l'ha proprio, ma perché io parto prevenuto. comunque. Io vorrei vedere il maestro Ottani compilare un codice CAPTCHA per sicurezza. Allora, è un'ottima idea, perché ora dei dubbi vengono anche a me. Già il DUSA cinese lo leticò, il dipartimento di ufologia. Allora, facciamo così, questo è il momento in cui ora facciamo sentire un po' di musica. Io gli scrivo i codici ora, CAPTCHA. No, ora ti filmiamo mentre fai un codice CAPTCHA. Ora ti vediamo scrivere, compilare e poi scrivere un codice CAPTCHA nel tempo in cui il dottor Bleso cosa combinerà adesso per noi? Potrebbe essere arrivato il momento di farvi sentire una canzone. Ah! Una di quelle vere. Ah! Orbene, orbene, dottor Bleso. Cosa sta prendendo? Cos'è quello strumento ligneo? Infatti, facciamo una piccola... Apriamo il momento musicale, facciamo chiarezza su quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, no? Diciamo sotto le nostre orecchie, se così si può dire. Bene, allora... Qui per gli amanti della musica ho due Volca che stanno fornendo tutto lo scibile musicale di questa puntata, oltre che una simpaticissima chitarra acustica con il quale mi accingo a presentare il prossimo brano. Il prossimo brano viene da un cantautore, cantante, rapper, produttore americano che sta diventando famoso. Con il quale, perché porterò anche nella prossima puntata, con la quale vi porterò un attimino in California. Qui invece no, non penso se possiamo rimanere su una cosa tipo Los Angeles, una roba del genere, perché l'America ci piace tanto, ci piace il pop e ci piace soprattutto a vedere Andrea compilare codici CAPTCHA per noi. La prossima canzone è di Yauni e si chiama Trigger of Love. Run, she got the gun. She will pull the trigger on you, and the trigger is of love. She got the run, the dun, and the bong, bong, bong, bong. Ooh, ooh, ooh. Run, she got the gun. She will pull the trigger on you, and the trigger is of love. She got the run, the dun, and the bong, bong, bong, bong. Ooh, ooh, ooh. BMX girl, bunny up on it. Playlist to Monopoly. Playboy in a mansion like a Mefner, and she's stopping me. Land strip on it, big enough to fly cock mix. She woke me up to kisses, some distant, told her to stop it. Wake up, make love. I'm broken and sweet, I think I need some ventilation. Laid up, stay stuck. I'm taking the check, I work the week like it's a day shift run. She got the gun. She will pull the trigger on you, and the trigger is of love. She got the run, the done, and the bomb, bomb, bomb, bomb. Oh, oh, be my next girl, she's on top of shit. I stay out the gossiping. Playboy and she dance around me naked, Janis Joplin. Anything is possible, girl. Politicking with you, not a problem, little girl. Wake up, make love. I'm broken and sweet, I think I need some ventilation. Laid up, stay stuck. I'm taking the check, I work the week like it's a day shift run. She got the gun. She will pull the trigger on you, and the trigger is of love. She got the run, the done, and the bow, bow, bow, bow. Uh-huh. She got me, she got me. She got me wanting something. She got me, she got me. She got me down on one knees. Wow, dottor Bleso, accidenti, maestro, maestro. Musica dallo spazio. Musica spaziale, se non proprio dallo spazio spaziale. Dottor Bleso, a proposito di questo, qual è la sua provenienza? Terrestre? Non proprio. Non proprio. Diciamoci la verità. Si trattiene il dottor Bleso, non diciamoci ci vuole dire di dove. Verità. Diciamolo. Ma magari teniamolo per la prossima. Quel che posso dirvi sì. È che non vengo ovviamente dalla Terra, ma vengo da un posto un po' lontano, diciamo, composto la mia razza, fondamentalmente il maestro lo sa bene, è composta solo da musicisti. Siamo tutti musicisti e tutti ci occupiamo di musica. Beh, vieni da Bologna, quindi. Sì, gli orchestrali, sì, certo. Ma dottore è un titolo che danno a tutti voi oppure lei ha... No, ovviamente solo ai più importanti, tipo me, appunto, sono stato mandato sulla Terra appunto perché c'era molto da studiare, quindi ovviamente non avrebbero potuto mandare una persona qualunque, insomma dovevano mandare... Poi nel senso che la Terra è importante anche, cioè voglio dire, cioè l'anno scorso, cioè già... Certo. Ma io non gli avrei dato così importanza. Marco Castoldi. Gli organi a canne. Gli organi a canne. Quelli sono belli. Le canne a organi. I fortepiani. I Maneskin. I pianoforti. I Maneskin si dice, ti sì. Ricordo, abbiamo già trattato questo argomento. Molto bravo comunque, dottor Bleso, complimenti e grazie di nuovo. Grazie, grazie a dottor voi, Bleso. Voi. Grazie. Un po' di sottofondo, dottor Bleso, per noi. Arriva, volete sentire una cosa che viene, che va molto da dove sto io? Sì. Tipo una musica. Cioè va di moda sul suo pianeta. Va molto di moda. Senti qua. Piccolo sketch per voi. Se ho appena sentito bene, questo era una tipica arringa di tribunale. Si capiva il testo? Si capiva il testo? Sì, si capiva. È nella lingua del pianeta, insomma, che ancora non ci ha rivelato. Io che ho già capito qual è. Dalla lingua. Ma non lo diciamo. Dalla lingua. Tempo al tempo. Ingegneria inversa. Molto bravo, maestro, comunque, ad aver compreso. Molto bello questa arringa. Molto bella questa arringa. Un avvocato nobile, questo deve essere. Allora, Ho perso. Molto bello, tutto stupendo in questa strana puntata. Mi sono dimenticato di un momento. Lo dovevo fare prima, lo farò adesso. Dottor Bleso, la voglio concentrato. Abbiamo bisogno della sua voce per un momento. Dica. Sta per succedere una cosa, dottor Bleso. Non funziona. Come sempre, porca miseria, riproviamo. Vai. Sì, allora, però capito. Non me lo puoi far partire così. Lo cioè. So, era per... Cos'è, che cos'è? Pronto, dottor Bleso, di nuovo? Mi sta Ciripeo. Ehi! Tutto saturato a bestia. Molto bene, l'anagrammista Ciripeo. È il momento. Ci proviamo. Riflessi pronti. Allora, 3, 2, 1. Anagrammista Ciripeo. Beh, bravissimo, dottor Bleso, molto bravo con questa bellissima sigletta che introduce il momento dell'anagrammista. Tra l'altro, gran pianista, posso dirlo. Bravo ragazzo. Bravo, bravo, quello che l'ha registrata, sì, vero? Sì, è un bravo coglione. Deve provenire ad essere con... Sì, ma mi sa che... Con paesano. Parti mie. Allora, è partito l'anagrammista Ciripeo, perché? Perché il solito nostro... È il momento dell'anagrammista. Ex Papa, certo. Ciripeo, cioè, ex-papa. L'ex-papa, maestro. Giulio Ciripeo VII, che... Chissà perché ha scelto di contribuire dall'aldilà con noi alla nostra puntata con i suoi anagrammi. Nella puntata di oggi abbiamo poco fa parlato di cosa? Beh, abbiamo parlato di Red Ronnie, giusto maestro? Sì. Red Ronnie, qual è l'anagramma di Red Ronnie? E lui ha parlato di noi. E Jimi Hendrix ha parlato attraverso lui. Quindi Jimi Hendrix ha parlato di noi. Sì, potremmo continuare a lungo con questa proprietà transitiva, ma ho paura di dove andremo ad approdare. Quindi tratteniamoci ancora qui all'anagrammista con Red Ronnie, che potremo anagrammare in... Non dire re. Bello, bello, bello. Red Ronnie, non dire re. Bello. Non ti è piaciuta tanto, maestro. E allora te ne faccio un'altra, sempre sull'argomento. Sonia Benassi, la medium. Questa è forte. Sonia Benassi, attenzione. Sonia Benassi, medium. Umida messe in Bosnia. Questa mi piace molto. Questa ti è piaciuta. Umida messe in Bosnia per sì, Sonia sì, Benassi sì, Medium, sì, sì. L'anagrammista Ciripeo. Soprattutto perché in Bosnia, insomma, voglio ricordare, ci sono le piramidi. Ne abbiamo parlato delle piramidi bosniache, di Osmagnac, come si chiamava? Sì, sì, credo è stata la nostra terza o quarta puntata. Potete ritrovarle comunque sul sito, sì, bellissima. Nella nostra prima stagione. Le piramidi bosniache, antecedenti a quelle egiziane, abbiamo approfondito a lungo. E allora, sempre siccome siamo sul momento dell'anagrammista Ciripeo, ti dico solo l'anagramma, senza dirti il tema, di ciò che sta per succedere. Ovvero, una nostra ascoltatrice, caro maestro, ci ha mandato un audio. È una domanda a te. Che ci riporta all'ufologia stretta, che ci dà anche il destro per introdurre d'altronde la rubrica tua che seguirà. Se ci dà il destro io mi scanso. No, ci darà il sinistro, okay, allora okay. Va bene? Ah no, ok, scusami, non avevo colto al volo. Ho sbagliato, porca miseria. Ah, è successa una cosa bellissima. L'anagrammista Ciripeo ci ha scritto in diretta. L'anagrammista Ciripeo ci ha detto non dire re. Non era re, era re, la nota. Non dire re, non era, era ah, re. Ora ha molto più senso. Ora ti piace? Ora ha molto più senso. Ora ha un senso, certo. Come dire, totale. Totale. Grazie anagrammista per la correzione e chiedo scusa. Anagrammista, voglia ancora donarci dei suoi anagrammi per io vorrei prossime puntate, sì. Dire al nostro anagrammista che oltre al... fatto che sta svolgendo un ottimo lavoro, ma vorrei anche, come dire, invitarlo a non utilizzare metodi convenzionali di comunicazione come la messaggistica istantanea, quanto piuttosto ricorrere al caro vecchio piccione viaggiatore o telepatia. Noi siamo predisposti per questo e molti altri. Abbiamo tutte le tecnologie metodi. A disposizione. A proposito di tecnologie, allora io ti dirò soltanto l'anagramma del tema che sto per introdurre con l'audio della nostra ascoltatrice, che è questo. Sì, console ansie. Questa era una citazione. No, era all'inizio, era sì, virgola, sì. Come se, sì, quindi... ma è una citazione, te ne rendi conto? No, ma è Star Wars ancora una volta. No, non è Star Wars. A proposito, chi aveva detto prima di Star Wars ti ha detto che è innamorata di te, comunque. Ok. Se vuoi combinare poi. Va bene. Allora, dice, sì, console ansie, l'anagrammista Ciripeo. Console ansie? Niente, via, sentiamo, dai, sentiamo l'audio. Allora, mandiamo giù il dottor Bleso, sentiamo l'audio della nostra ascoltatrice. È una domanda per te, maestro. Mi raccomando, impegnati gentilmente nella risposta, attento ad ascoltare intanto. Pronto? Buonasera maestro, innanzitutto è un grandissimo onore per me porle questa domanda. Io sono Caterina da Londra, perché la vostra radio è conosciuta anche qui, e stasera le volevo chiedere qual è il rapporto sessuale più lungo tra le varie razze aliene. Anzi, un'altra domanda, ma gli alieni fanno sesso fra di loro? Cioè ci sono dei rapporti sessuali completi fra gli alieni, e se sì, qual è quello diciamo più lungo tra le varie razze? Allora, il maestro ha già annuito, ha fatto mille versi, è già pronta la risposta, però maestro, un attimino, c'è un altro pezzettino di audio aggiunto a questa domanda. Sì. Per cui le faccio questa domanda è perché, appunto, se mai dovesse capitarmi di fare un incontro del quinto tipo, in qua almeno, ecco, posso essere preparata in maniera adeguata a questo. La ringrazio anticipatamente e non vedo l'ora di sentire la risposta a questa domanda. Grazie, maestro. Io le dico prego anticipatamente, già prima ancora di rispondergli. Si dice grazie anticipatamente, tu dici prego anticipatamente. Sì, sì. Anticipatamente e... prego in anticipo. Tipica formula. Sì, nelle... Allora, la prima domanda era ben posta. E voglio fare anche i complimenti alla nostra ascoltatrice per il fatto di aver utilizzato una... espressione tipica del linguaggio in maniera propria. Quale per la precisione? Incontri ravvicinati del quinto tipo. Ma perché si è dimostrata un'ascoltatrice delle nostre puntate. E questo mi rammarica e mi rincuora allo stesso tempo. Sentimenti ambigui. Ambigui, sì, contrastanti. Sono anche un po' frustrato. Perché però ricordiamolo, gli incontri ravvicinati del quinto tipo sono... Sì, per chi non l'ha ancora capito. Sì. Sono... Per cui tardi. Esatto. Praticamente il momento in cui... un essere umano interagisce con un membro o più membri della razza aliena da un punto di vista sessuale. Se sono più membri si tratta di un'orgia spaziale e siamo sicuri che non esista solo nello spazio. Allora maestro, un attimino, prima di rispondere alla domanda, ricapitoliamo. Il primo tipo è, l'incontro avvicinato del primo tipo è un avvistamento. Quali sono i tipi? Si può fare un elenco, primo tipo, secondo tipo? Sì, certamente. Allora, l'incontro ravvicinato di primo tipo è un'interazione indiretta, potremmo dire, ok? Un incontro ravvicinato del secondo tipo, invece, è un'interazione diretta solo in un verso. Cioè, a senso unico. L'essere umano che vede... Che si accorge. Sì, sì, sì. Ok. Sì. Invece l'incontro avvicinato del terzo tipo è un mutuale accorgersi, okay? Sì. In questo senso. Un incontro avvicinato del quarto tipo è riassumibile con l'adduzione. Il rapimento, in qualche modo. L'incontro avvicinato del quinto tipo, invece, è un incontro sessuale. Incontro avvicinato del sesto tipo e poi quando ti lavi i denti la mattina dopo con l'alie, perché comunque è un'altra esperienza. Le coccole. Le coccole, esatto. No, scherzo. Si arriva fino al decimo di tipi. Ma però il primo su... qual è? Davvero, si arriva fino al decimo? Si arriva fino il primo al decimo. Il primo è Tinder. Comunque, dottor Breso, tenga conto lei che se il quinto tipo è il rapporto sessuale, il decimo... Il primo è conoscersi, quindi. Ma il decimo è inimmaginabile. Si parla anche di veri e propri... come dire, piani per fare mutui insieme, si arriva a questo anche. Allora, ma non eludiamo la domanda della nostra ascoltatrice. No, non eludiamolo affatto. Fanno sesso fra sé gli alieni? Assolutamente. E se sì, chi è che lo fa più a lungo? Assolutamente sì. Nel senso, chi dura di più? Assolutamente questo sì. Questo ci ha chiesto. Lo fanno. Allora, tendenzialmente direi che quello più noioso... probabilmente sarà quello dei rettiliani, che come potete immaginare depongono le uova. No, scherzi, in realtà non è vero. Non depongono le uova. Però sicuramente posso affermare che l'atto sessuale più lungo, più duraturo, avviene con il sesso interspecie. Che è possibile. Cioè, che vuol dire interspecie, scusa? Interspecie. Tra un membro di una razza aliena e il membro di un altro membro di una razza aliena. Puoi smettere di usare la parola membro? Allora, maestro, ma quindi, allora, il rapporto più duraturo è fra alieno e alieno? Sì, alieno-alieno, ma di razza diversa, di specie diversa. È più duraturo fra alieno e alieno della stessa razza? No, è più duraturo tra due alieni di... Quello specie. È più duraturo che sulla stessa... Un po' come i cani bastardi rispetto ai cani di razza. Esattamente. Quelle robe lì. Esattamente. Sì. Quindi se volete esplorare i confini delle durate sessuali, dovreste essere anche molto coraggiosi e, come dire, accettare l'invito a cena e non solo di magari uno essere con le branchie, perché no? Ecco maestro, ma sì, ma avvengono in modo tradizionale, diciamo così, nel senso, cioè, cioccolatini, no, le scene, nel senso, sì, apre la porta, quelle cose. No, mi chiedevo se avviene la penetrazione. Ok, allora, questo ovviamente dipende da specie a specie, e chiaramente ogni specie, come dire, ha un suo modo specifico di riprodursi, in questo senso, e come dire, che può andare da quelli noti sulla Terra a quelli meno usuali. Per esempio, c'è una specie di cui non abbiamo ancora parlato che come dire, riesce a riprodursi come fanno i funghi, praticamente, con spore. Ok. Si può parlare di atto sessuale in quel caso? Ecco, in quel caso io non saprei, sinceramente, perché la mia mente materiale mi spinge a dire di no, ma il mio spirito, come dire, più elevato, invece mi spinge a pensare che sono un po' la stessa cosa. Chissà, solo forse sono barriere culturali le nostre che ci limitano, le vostre in realtà. Bravo maestro, sei davvero un uomo senza pregiudizi. Caro maestro, allora tagliamo la testa al toro. Se tu dovessi avere una relazione sessuale con una specie aliena, quale sceglieresti? Togliamo il se dovessi. Quando hai dovuto o voluto nella tua vita avere una... Qual è stata la più appagante? Ok, io ho una predilezione per gli esseri a forma gassosa. Bene, bene, bene. Questo può parlare di feticismo? Non lo so. Non lo so. Questo comunque è il nostro consiglio, cara ascoltatrice. La cara ascoltatrice, però, maestro. Dicevo, la cara ascoltatrice. Sbagliavo tutto, ho fatto tutto da solo. La cara ascoltatrice, però, maestro, ha un'altra domanda in serbo per te. Prima che tu ci delizi con l'ultima rubrica di questa puntata. Sei pronto? Certo. Ascolta, eh. Maestro, buonasera, qui è ancora Caterina da Londra. Mi è sopraggiunta un'altra domanda. Allora, nel caso io sia in bagno a defecare e ho un incontro del quarto tipo, mi chiedo, ma il materiale fecale viene risucchiato, non so se questo sia il termine giusto da usare, nella navicella insieme al mio corpo, oppure invece rimane lì? Grazie, la ringrazio ancora. Questa è un'altra domanda molto pertinente, direi. Sicuramente... Anche la terminologia, di nuovo, del quarto tipo, nel caso dell'adduzione, veramente bravissimo. Brava, sì. Sicuramente rimane lì, quindi non ci sarà nessuna preoccupazione anche di pulire eventuali residui rimasti sul corpo. Una risposta secca e chiara. Io non pensavo che tu avessi tutta questa certezza su questo argomento. Sì, maestro, fa però si i versi. Si vede che l'ha fatto altre volte. Non mi dispiace davvero che chi ascolta non possa vedere i versi continui durante la trasmissione del maestro. Mi dispiace tanto, tanto. Sì, diciamo, nonostante il talento, riesce comunque ad essere sprecato. Anche, sì, vero? Anche in questa... Molto bene, molto bene. Grazie alla nostra ascoltatrice. Vi ricordo che esiste la messaggeria del Wombat, con la quale ci potete mandare messaggi come questo, spippolando sul sito del Wombat. C'è un tasto che, premendo sulla pagina contattaci, vi permette di mandarci di questi messaggi. Allora, è il momento degli ultimi 10 minuti di trasmissione, mio caro maestro. Tu prendi le tue carte, apri il tuo scrigno e cimenta le tue pupille. Mentre, dottor Bleso, adesso io la sto per mandare giù, perché quello che sta per capitare è di cambiare il sottofondo e di mettere il nostro sottofondo consueto per questo momento. Sì, diciamo che sono d'accordo. Grazie, dottor Bleso. Diciamo. Grazie, grazie. Allora, la sigla di solito è molto lunga prima che inizi a diventare forte, quindi possiamo intanto abbassare e rialzeremo dopo. Questa sera parliamo degli agartiani. Allora, siamo sulla solita rubrica delle razze o specie, meglio, aliene. Questa è la sera degli agartiani per voi. Questa è la sera degli agartiani, che vorrei dedicare anche al... visiting professor da Agartha, da Shambhala, che era stato ospite in qualche puntata precedente. e voglio dire, mi sembrava giusto cogliere l'assist e pronunciarmi anche su questa specie che ha affascinato e affascina tuttora. Innanzitutto partiamo dal nome, appunto Agartiani, che ne in qualche modo indica anche già la provenienza. Però forse non tutti sanno che prima di essere abitanti della nostra terra cava erano abitanti di Marte. Ah. Sopravvissuti alla sua distruzione. Gli Agartiani sono antichi abitanti di Marte. Sì. L'aspetto fisico è... partiamo dalla pelle, color bruno olivastro, e hanno questi due occhi che sono come due fessure, le pupille sono a fessure, ok? Sono alti più di 4 metri, quasi 6, e hanno 6 dita per mano. Hanno un cranio bombato all'indietro verso l'alto, una fronte alta, senza capelli. Mandibola pronunciata e dura, e la larghezza del viso è più stretta della lunghezza del cranio. Non so se riuscite a figurarveli, a immaginarveli. Sì, mi sono distratto soltanto sul colore della pelle. Bruno olivastro. Quindi, sì, scuro, sì, diciamo. Sì, sì, sì. Questi esseri pare che siano in qualche modo governati e sorretti da quello che già nelle scorse puntate abbiamo definito come il re del mondo, no? Che è questa figura quasi benevola che si contrappone al re del mondo terrestre, di superficie, che invece è cattivo e quindi dovrebbe in qualche modo riportare la simmetria, no? nel sistema. Questo nient'altro che Manu. In teosofia e nell'esoterismo viene nominato così. E è un essere divino, quindi un maestro di antica sapienza che lo stesso Genon identifica come il re del mondo e che, come dire, governa all'interno di quella attuale che è l'era del cinghiale bianco ed è dotato di intelligenza cosmica, si dice. Ora, Genon stesso rintraccia questa figura in altre religioni e in altre tradizioni anche. Lo ritrova per esempio in Manu degli Hindu, nel Metatron cabalico, nel Menes degli Egizi, nel Menu dei Celti, nel Minos o Minos dei Cretesi e Greci, e nel Melchisedec ebraico, nell'Arcangelo Michele dei Cristiani. Si tratta del settimo e attuale re del mondo. Attuale, maestro? Attuale. In realtà, probabilmente, le figure con cui è stato identificato precedentemente magari riguardavano altre sue incarnazioni precedenti. Ora siamo alla settima. Quindi dovrebbe essere appunto il regnante di Agartha insieme ad altre due figure minori che vanno a comporre una triade sacra. Prima di parlarvi dei veicoli che usare, vorrei parlarvi dell'ultimo avvistamento che c'è stato sulla Terra, di uno di questi Agartiani, niente proprio di meno che del re del mondo, per l'appunto. È affascinante, a quando risale questo ultimo avvistamento? Al 1923. Ah, non è tanto in là, eh? In India e Siam appare il re del mondo benedicendo la folla, assiso in un trono sopra un carro d'oro, trainato da elefanti bianchi. Sarebbe apparso reggendo in mano una mela d'oro sormontata da un anello con inciso l'emblema ariano della svastica, che in questo caso non ha niente a che vedere col nazismo. No. Ora, parlandovi dei veicoli appunto che usano, oltre ai già citati elefanti bianchi, sono carri volanti trainati da animali mitici. Belli questi Agartiani comunque. Quindi in qualche modo la loro... È anche strano l'anello che sormonta la mela d'oro, sì. Cioè perché fisicamente comunque è strano. Una figura ricorrente anche questa. E sormonta la mela d'oro. L'agenda quindi sarebbe quella di regolare simmetricamente l'energia maligna del mondo di superficie. La loro agenda in qualche modo. Curiosità. Potrebbero aver disegnato il candelabro delle Ande, che è uno di questi glifi, anzi geoglifi. Bella questa curiosità, comunque è bella. Posizionati sui crinali delle Ande e sono apprezzabili anche, come dire, da lunghe distanze, perché sono giganteschi. Ok? Li sto guardando il candelabro delle Ande, accidenti. Cioè, sono dei simboli disegnati sui fianchi delle montagne. Sì, ricordiamo anche, come dire, più o meno nella stessa zona e più o meno simili possono essere anche identificate le linee di Nazca. Molto bello. Di cui abbiamo già parlato, certo. anche di questo. Lo sto candelabro. Ora, io non so quanto tempo ci rimane. Allora, in realtà sta finendo, però... Allora, io voglio... come dire, continuare questo approfondimento sugli agartiani sicuramente in una prossima puntata, perché ho scovato dei documenti. No, è bellissimo, allora, va bene, importante. Gli agartiani si meritano due puntate, io sono d'accordo. Ricapitoliamo i punti topici comunque degli agartiani. Sì. Provenienza marziana, sì. Questo cranio senza capelli allungato, però eccetera. Poi si sono installati nel centro della Terra, quindi. Si sono poi installati nel centro della Terra e ancora oggi una la proteggono. Una volta che Marte è stata colpita da questo disastro. Resa inabitabile. Ma quel disastro è stato di origine agartiana o... Sì. No, è stato, cioè diciamo di origine... artificiale. Artificiale, sì, non naturale. Agartiana, diciamo che... Non necessariamente, comunque sì. Diciamo sì. Che una fazione degli agartiani può essere stata responsabile, ma non completamente. E adesso, a tutt'oggi, stanno compensando in positivo i mali della crosta terrestre, quindi svolgono una funzione benefica, questa è sostanzialmente la loro agenda. Ma abitano tutti qua o anche altrove? Abitano tutti qua. Però sono ovviamente esploratori dell'universo, molto più del dire. Veramente bello. E quando compaiono, superficie. Compaiono su carri d'oro trainati da animali sì. mitici. Bellissima questa figura degli agartiani. La curiosità qual era? Ridiccela, scusami, era... Sì, la curiosità è che potrebbero aver disegnato il candelabro delle Ande, potrebbero aver disegnato. Ci tratteniamo qua e poi tutti gli approfondimenti degli agartiani li mandiamo a fra due puntate, perché la prossima avremo la nuova rubrica che abbiamo annunciato la scorsa, ma chissà in realtà. Chissà. Siamo un po' alla base, va. No, non l'alzo perché sta finendo, quindi la mando giù invece. E caro dottor Bleso, secondo me quello che potrebbe succedere adesso è questo. Due lacchezzi, salutiamo tutti e ci diamo appuntamento fra due settimane con Lezioni Universali di Esistenza. Ma va bene. Prima di tutto ricordo che ci potete contattare con posta su postawombat@insiberia.net. Quando siamo in diretta ci sono mille altri contatti trovabili cliccando sul sito. Allora, prossime puntate, topic e argomenti, già ve li diamo. Stravolgeremo le questioni cosmologiche, che non erano cosmologiche ma erano cosmogoniche. E parleremo invece di altro, ma non vi annunciamo niente. Piramidi egizie, musichette ancora in diretta, tanto da scoprire. Parleremo di note e anche di simboli. Allora, però prima di lasciarci... E anche di animali. Perché no? Sì, perché no, in effetti. Prima di lasciarci, caro dottor Bleso, un attimo di concentrazione le richiedo. E allora, per concludere quello che abbiamo lasciato in sospeso, per favore, 3, 2, 1... Cioè, perché ogni volta io penso che devo fare chissà che cosa. Lo so, invece è una cazzata, ci vuole 3, 2, 1... L'anagrammista Ciripeo. L'ultimo anagramma dell'ex Papa Giulio Ciripeo VII di questa puntata era la soluzione a sì, con sole ansie, era la risposta a sesso alieno? Sesso alieno, sì, con sole ansie per l'anagrammista. Grazie, dottor Blese, è bella. Non registriamola mai la vera voce. No, no, sempre è molto più bello così. Per sempre così. Sì, sì, è molto bello. Allora, che cosa ci regali in conclusione di questa puntata? Allora, qualche giorno fa siamo andati anche col maestro, perché no, lo dico, a sentire un concerto di Edda, un altro di noi, ovviamente. E vorrei dedicare appunto questa canzone sua. Perché no, al viaggiatore che magari vede davanti a sé, sta viaggiando, sta tornando a casa, è Natale, perché no, e vede il tramonto, presente l'alba sul mare o il tramonto sul mare a seconda del litorale che sta attraversando. Questa è Semper Biot, dall'album Semper Biot di Edda, un album bellissimo, uno dei suoi primi album da solista, forse il primo se non sbaglio. Andatelo a sentire, è bellissimo. Questa è Semper Biot. Sono nata in Argentina, son partì da Buenos Aires. Adusan. Sono andata in Australia a fargli scaffolding, capisnago, e parlo solo in Chinese. Di religione sono Hare Krishna e mangio Mingaga. Ma in Dio io non ci credo, mi piacciono troppo i Tucson. Mia merendera, mia prigioniera. E siccome lo sai, è come se lo sai, Semper Biot. Ue calimera, chi muore spera, la la la. E siccome lo sai, è come se lo sai, Semper Biot. Mi piacevi da morire, te lo devo proprio dire. Me ne vergogno, ma ne ho bisogno. Lo sa bene la me piaceva, lo sa bene la Gepù. Prova a telefonarle, la te manda darvi al più. Forse me lo meritavo, che un karma così di merda, nascere in Argentina e non morire neanche in Inghilterra. Ue calimera, chi muore spera, la la la la. E siccome lo sai, è come se lo sai, Semper na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it, we've marked. Roger. Roger,